questo qua sempre la montana, già nessuno che vento. Abbiamo una settimana che c'è questo vento freddo. Poi tocca vestirsi come un carciofone, a tratti, sotto maniche corte, sotto maglione, sotto ancora giubbotto. A seconda dell'ora ti devi cambiare. E io ho la polo a maniche lunghe, la mattina. Maniche corte non me la metto ancora, il giubbotto invernale. Il giubbotto vuol dire invernale. Metto mattinata, mi tolgo il giubbotto, però sono sempre a maniche lunghe, non fa stare in maglietta, assolutamente, dove sono io. Stamattina c'è un freddo a 30 gradi, allucinante, mamma mia. E poi a quelle ore, la mattina sta diventando un casino, la mattina, è veramente triste. Lo so. Io sto continuando ad andare in macchina consumando le ore di benzina, perché no, la moto ancora c'è freddo. La gioventù che già fa. Vabbè. Per il resto tutto a posto quindi. Tutto a posto, niente in ordine come sempre. Sempre casini, che contro casini, quindi. Ma ci siamo abituati. Sì. Noi ci sono solo tutta la settimana, io figurati. Mi ha mandato poco in ferie di gente. Tutto solo, sto gestendo tutta la parte della bassa e alta gallura, tutto da solo. Sa che non sia niente. A volte ci siamo in più, a volte ti giri e non trovi nessuno. Beh. Oi Natali, dice Gianfranco. E adesso bene, mi senti? Ciao Natali, adesso sì che arrivi bene. 9 spiccioli, 9.10, 9.15. Cappala. Oppure 9.20, adesso ho guardato meglio, mi sembra 9.20 addirittura. Ma non c'è paragone. Claudio ti ha fatto un bel lavoro, visto? Sì, abbiamo fatto un lavoro, wow. Se lo vedi ti spaventi come l'abbiamo piazzata, diglielo qua. Un lavoro un po' tosto, è venuto già fra. Comunque ci abbiamo fatto. Era fattibile, insomma, dai. Con tutti i problemi era fattibile, comunque ci abbiamo fatto. Non avevamo altre soluzioni. L'hai fatta, ma adesso momentaneamente non è così, poi più avanti si vedrà. Ok, e beh, da lì è entrato nessuno stamattina. E stamattina è entrato Franco, è entrato Giulio, ci abbiamo fatto una bella chiacchierata. Franco sempre quello maritoriano. Eia. Non mi ricordo, non mi attivo, ce l'avevo al tempo. La moglie era ombra, lui non me lo ricordo, ma giù è tratto, ok. Regata Biniera non si è sentito invece. No, mi serve, regata, mi deve prestare uno di quei trapanini piccoli che devo fare una cosa. E non è entrato, gà. No, io non ho di quei trapanini piccoli, c'ho quello normale. Nella boccia per quella percussione, quello del tipo ITI, e basta. Antonio, quelli piccolini c'era il mio collega, volevo chiedere, capito? Però se è tratto da lui, non c'è problema. Avanti Gianfra, ti prendi. Sì, riprendo e vi saluto momentaneamente perché mi stanno chiamando fuori. Devo andare a vedere un po' cosa c'è sul territorio. Ci sentiamo dopo se ci siete. E io Gianfra, noi siamo sempre qua tutta la sera. Da quest'ora sino all'ora di cena siamo qua. Fatti sentire a dopo. Vai Natalia. E ciao Gianfra, ci sentiamo dopo, dai, già siamo qua. Ok, a dopo. Perché non c'è nessuno? Valerione? Valerio non c'è. Va bene, ok. Mi hanno fatto abbassare la radio che ce l'avevo troppo forte, quando trasmetti con un watt è una bestia questa. No, è che te l'ha fatta abbassare Giulio. Ah? Chi te l'ha fatta abbassare Giulio? E anche Franco, dice che ero potentissimo. L'ho messo a metà, ma chi viene ha tolto il doppio modulatore. A chi si no è tremendo. Se tu l'abbassi, cioè ha dei picchi paurosi. Ma infatti va bene anche così, Natalia, perché no. Sono accorto, forse io sono più distante, ma è più vicino, quindi no, va benissimo la radio così, è 5 perfetta, bella forte, non problema. Eia, ma non sono con un watt adesso, l'ho abbassato stamattina per farglielo vedere che potevo uscire anche con un watt. No, lascialo 20 watt, 20 watt è più che sufficiente. No, 10 so. 10 ne messo, va bene, 10, non problema. Ok, per notare sempre sali e scendi, una via di mezzo già va bene, ne hai 40, ne metti la metà, non c'è problema, va bene, qua non ho fatto nessuna differenza, sempre più. Guarda cosa si sente. Ma cosa ventola? È il Tumbler che sta pulendo i bussoli. E va, vibrazione, vami. È tipo Sibu, qualcosa del genere. E cazzo, fa anche domenica, sono cantato e non ho avuto a cugli nuda. E la rimessa di mesa chi non serve, ne bara mia. Ma perché poi fai tu le cartucce? E allora quei bussoli che mi erano avanzati adesso me li devo fare che non agio manco una. Armiere sei diventato lui. E se allora non andare a comprarli, li do tu euro la cattura, a chi manco sogo? A me mi costano 4 euro. Ah, prendi i bussoli e poi te li fai tutti, li riempi tu. E allora gli metto la palla, li innesco, tutto io faccio. Bella tattarino, apriamo un'armeria. E mica uno si è associato domenica, di cazzo sembrano commerciali, ma queste sono commerciali, no, le ho fatte io queste. Beh, se è una cosa che sai fare, perché non farli? Già va bene. E allora, c'ho la pressa e me le faccio io. Ma sono pericolose, no? No. È pericoloso per la polvere, quando metti la polvere, è pericoloso. Cazzo, no che ti buona fuma o accendili l'urumino, no? Attento, quello appunto si dice massima attenzione, capito? Vabbè. Attento Marcolino Condor, dove sia Platamona? Se invece raggiunta no, che aggiudamma fa cacciucci, la bagassa sua. Fa cacciucci. Tu la metti a cacciuccia. Questo Marcolino Condor. Lui gli è mancato Falcone, si è spento. E allora, spento è proprio. Si è spento. Ecco Platamona, per le due cosette. Allora, a me quel trappanino lo so cosa mi serve, a buccare un bossolo che devo fare un ciondolo a un'amica di mia moglie. Ci vuole quei trappanini a batteria con la punta fine fine, se no non va bene, lo rovini. E infatti, dato che sto facendo le cartucce glielo faccio. Sì, ero attaccato a internet tutta la mattina e tutto il pomeriggio. Stavo facendo delle ricerche. Beh. Tutto bene anda. Hai un primo per i cartucce che mi aiuti, bastardo. E come l'hai portato? Gli serviva il trappano. Ma dovrebbe venire lui. Io ancora ho notato che c'ho capogiro. Non posso uscire, no, a piedi. Non posso uscire. Oh. Ancora non è passato, mi pare un po' strano però. Dalla cruca devi andare tu. Sì, lo so, aspetta, ce l'ho qua da qualche parte buttato, le punte non so manco che punte ci sono, però funziona, si attacca alle 220, non è a pile, si attacca direttamente alle 220 e puoi regolare la velocità quanto vuoi, dal minimo al massimo. È nata lì, poi non ci abbiamo finito fine mese, fine di là, capito? Manco i soldi per la benzina abbiamo adesso. E quindi se lo vuoi ti devi avvicinare tu. Sto pulendomi i bussoli perché non ho potuto raccoglierli là, cazzo, che erano tutti miciati, mamma mia. Cazzo. Sono venuti quelli là e hanno sparato un bel e non li raccolgono quelli bussoli, maledetti, bastardi. Tu fai così, fai un ciondolo a chi hai detto tu, calibro 50. Basta andare da Fabrizio e me lo faccio dare uno. Eia. Eia, eia. No, mi dico, un ciondolo calibro 50 è leggermente grandino, eh? Ti dico un po' di sì. No, vuole un ciondolo, tanto le palle, quelle non sono, e se le ho per fare. Ne metto uno di quelli sparati, lo buco e poi gli metto la palla. Perché lo vuole mia moglie, l'amica di mia moglie. Perché quello che aveva mia moglie l'ha dato alla nuora, capito? Cazzo, mentire vesi nei rivoni, maledetti. Eia. Eia, Natalia. Ok, ma si è parlato di nuovo lo smitter qua, state arrivando tutti come se foste sotto casa. Tutti 9.30. No, anche di più, qua proprio fondo scala. Come proprio quando uno viene sotto casa in macchina. E ogni tanto si gira male sto smitter, sto strano. Adesso ti faccio sentire il tumbler. Si sente. E cos'è il tumbler? Quello che lava i bussoli. Ah, si chiama tumbler. Yes, funziona a vibrazione, me. C'è una graniglia e te li pulisce i bussoli, te li lucida. A ultrasuoni vuoi dire? No, a vibrazione funziona. Vibrami, c'è una graniglia dentro con i bussoli e per sfregamento che li lucida, capito? Ce n'erano vecchi e allora me li sto tutti pulendo, così almeno mi faccio le cartucce. Ogni appento, io non l'avrei fatto, io mi sarei comprato le cartucce direttamente nuove, invece tu le pulisci, ci metti la polvere, la palla, devi fare tutto tu, ogni appento, no, io avrei comprato le cartucce nuove al negozio direttamente. Sì, ma per 50 cartucce avresti speso 18 euro. Ma almeno non mi devo pagare tutto l'armamentario. Cioè l'avrei pagato pure quell'apparecchio per fare cartucce, il lavabossoli, tutta roba che ha un costo. E ho già una cuta che si è ammortizzato, avrò sparato già 4-5 mila cartucce. Vabbè, per te che le usi molto, sì. E tutti ricaricano da noi, È raro che nessuno ricarica. Quelli delle forze dell'ordine non gliele sbatte un cazzo perché a loro gliele danno, capito? Però bussoli non ne raccolgono loro. Adesso tocca a Gianfranco a raccoglierli, perché se no vai a cercarli e diventi matto. Era pieno di 9x19. E 9x21 non ce n'è. No, non ce n'è, perché se li raccolgono è 9x21 e se no i 40 Smith & Wesson sono introvabili, perché quelli che sparano 40 se li raccolgono per forza, se no maciappano i bussoli. Ma se no avete fatto un po' male. No, già ne ho 9x21 ne ho di bussoli, e la mia non è 9x21. L'altra mi hai fatto vedere? No, quella è una 17. Ma è 9x21 di calibro. Ah, buono, sì, è bella quella, è bella. Mi è entrato Gianfranco poco fa, 9:20 gli arriva Gianfranco, Mattarino. via. Allora, ho controllato quelle piccole stazioncine meteo, io volevo un termometro per interno e per esterno. Ho visto che anche da Lidl vendevano queste piccole stazioncine meteo, dove metti fuori il sensore che ti manda, ti trasmette l'umidità e la temperatura esterna. Facciamo un po' di roba, la pressione in millibar, la pressione dell'aria, ti fa le previsioni, ti fa vedere le fasi lunari, cioè la luna quando sta crescendo, quando sta calando. Bello, bello. Guarda, il più modesto costava 19 euro, che per me c'è in avanzo. Poi addirittura vendevano una versione dove ti davano proprio l'anemometro, cioè quell'elicchetta che metti in alto, no? Per determinare la velocità del vento, la direzione del vento. Addirittura ti davano il becker graduato col, insomma, tutto pronto per determinare le precipitazioni. Proprio una stazione meteo vera e propria, lì. Ma stai seguendo? Da Lidl, ho detto, da Lidl ne avevano a periodi, ne avevano di tutti i tipi, sia dei più semplici da 19,90 euro fino a quello che ti dà tutta la stazione meteo completa. Sì, l'ho vista. No, a me interessa quello modesto, a me interessa soprattutto la temperatura dell'aria, poi la pressione non mi interessa, o l'umidità non mi interessa proprio, mi interessa la temperatura. Appena lo vendono, quando adesso a fine mese entreranno soldi, appena lo faranno da Lidl lo comprerò. Ci sono anche da Amazon, li vendono, da eBay, però costano di più perché sono modelli più elaborati, capito? Non mi interessa tutta quella roba lì, le previsioni del tempo, già me ne affutti a me. Sì, ma a me interessa la temperatura, ripeto. Poi che abbia le fasi lunari, uno ti dice addirittura il sole sorge a tale ora e tramonta a tale ora. No, mi interessa una cosa modesta a me. Se ne trovano tutti anche a colori, col display a colori, a cristalli liquidi, solo che si costano poco, non mi interessano per tutte quelle cose, dai. Ma sono rimasto stupito dalla stazione meteo completa, proprio con l'anemometro, il coso per raccogliere le precipitazioni di pioggia, no? Incredibile, guarda. Sì, vabbè. Che cosa ci vuoi fare? Bene, bene, bene. Adesso è vero che l'uno è festa? Cos'è l'uno? Ma l'anno di giorno era? La festa del lavoro, cos'era? Primo maggio. Domani è festa lo stesso. Domani? E che festa è? Il 25 aprile, la liberazione. Non è rosso. Ah, giusto, è il mio onomastico. Io non ci entrare alle 6 e alle 7, però lavoro lo stesso domani, anche il primo maggio lavoro. Eia, feste contro feste. Poi c'è la benzina, non possiamo andare da nessuna parte. Poi posso guidare, ma camminare è lungo, no? Soprattutto col sole, mi dà fastidio. Ma pare strano mica non sia passato ancora sto capogiro, seppur leggero. È passata una settimana e più. Chissà che non sia un nuovo accidente che sta venendomi. Lega. E quindi mi entrano 100 più 60, 160 più altri 75, fatelo conto, o 60, e insomma 200 e più euro mi entrano. Ma quando? 3? Nel 2. Così è, così è pesante. No, sono tutti i soldi anticipati a mamma, ti ho anticipato a lei, capito? Così ci possiamo fare tutte le cene che volete. Già va bene, non problema. Qua la gatta ci cova, qua sto sentendo un lieve, quando riceve una specie di suono, così. Questo falso contatto c'è qua, sta insorgendo, sì. Insorge. Cazzo, ho ritrovato la pistola, quella buona per il chimico, ne ho due adesso buone. Chi dà frasera lampo, chi dà che non si fa nulla. Che pistola è? Per il silicone, con le pistole per le cartucce di silicone, di chimico. Una volta io ne ho presa una dal Librico Center, ma era una schifezza. Una schifezza. Non sono tutte uguali, per niente. Ce ne sono migliori e peggiori. Poi ci sono anche quelle professionali, proprio più grandi. Queste due sono di quelle buone. Che poi serviva a mia zia più che altro. Intanto lei che lo usa quando viene qua. Bene così, dai. La zia perché? Perché i lavori impegnativi li facciamo fare lì. Siliconatura o le cose lì. Io, ti pare che mi sporco le mani io? Gaieste. Oh signor. Cazzo, girano, cazzo. Il coso rimane fermo, ma per le vibrazioni che ci sono girano i bussoli. E come mai? È perché devono muoversi, no? Lui vibra, però fa girare sia la sabbia che i bussoli. Non è sabbia, è proprio una graniglia fatta apposta, per pulire i bussoli. Ah, ecco, capito. Cazzo, mi ha detto, cazzo, sembrano commerciali questi qui. Sono fatti bene. Io ero grido, allora male di voce. Abituato a farmi. No, mi ho preso un attrezzo che escono perfetti. Perché i dice sono 9 parabellum, non li fanno per la 9x21. Sono più lunghi i miei bussoli, no? E allora lì esce una gobba. E io per non fargli uscire la gobba mi ho preso l'attrezzo apposta. E ce ne vede amprosi, vedi dritti. E li posti. E sono tutti sì. Cazzo, era un bel di tempo che non ci andavo, gatta. I primi colpi infatti non da zio. Ma come ti va a giubilare a due a mano? Giù. Ti tieni un attimo, un secondo. Ho provato una beretta, Marcolì. Me l'hai già detto. Non sembra così pesante comunque. Sì, a pieno carico di più pesa, perché c'ha tutto il piombo. A pieno carico, poi man mano che spari diventa più leggera. E la mia pesa la metà. Via. Ma siamo ancora molto indietro, ancora siamo bossolo, polvere, bossolo che pesa. Dice, stavano studiando queste munizioni senza bossolo, praticamente è un proiettile, solo il proiettile con alla base una carica propulsiva. Il fucile usa una scintilla per accendere questa carica, ma dice da 40 anni che la stanno studiando ancora non hanno fatto niente. Ma io mi posso dirci, mi faccio, cazzo, non me ne ha avanzato manco una di gasciucce, ne avevo 100 e 100 me ne ha sparato, me ne sono andato subito infatti, adesso me ne faccio tutte queste. E poi spari tutte. E panna sempre bene, un macello. Cazzo, già era un bel bel po', quanti mesi sarò che non ci vado, Marco? 3 mesi? Sì, non lo so. Non lo so, c'è. Ce n'era un altro che aveva la pistola come la mia, ma non da zia manca a lampada, che... Sì, non tutti lo sanno, sanno tirare. E poi bisogna tarare il mirino anche. Bisognerebbe mettere la pistola nella morsa, sparare contro un bersaglio, no? Con la pistola in morsa, fare vari colpi e poi regolare il mirino, capito? Dove va il proiettile, più o meno, insomma. E come fai a tararlo che non si può tarare il mirino della mia? Nell'altra già ce l'avevo regolabile, ma me l'ha messa io l'attacco regolabile, perché sparava in basso come la beretta, in basso e a sinistra. Ah, fissa era, ho capito. E allora ti devi... Peccato però, perché l'attacco regolabile è una grande cosa, Ti permette di aggiustare il tiro, capito? Vabbè. Nella Glock è inutile che spara dritto, non è come la Beretta, la Tanfoglio, quelle che hanno il cane che abbatte. Quelle come la mia sparano dritto e non ce n'è bisogno, basta che tu metti il mirino al centro dell'attacca e noi bagli un tiro. Adesso mi tocca prendere lo scolapasta, c'ho uno scolapasta vecchio, no? E quei bidoni di vernice che non avevo preso da dove stavo lavorando, butti, no? E la svuoto lì, bussoli e sabbia. Così la sabbia la rimetto nel tumbler e i bussoli me li becco. Ma che sabbia è? È una sabbia speciale? E più che sabbia è una graniglia che ti lucida i bussi, sono già puliti, me. Ah, mi va nel sacco e svuoto la sabbia con i bussoli dentro il barattolo della vernice, quello grande. È un bel attrezzo, Almeno sono lucidi i bussoli, non sono sporchi. Sì, perché quando li compri industriali sono lucidissimi, no? Poi sai, come se li tocchi con le dita, poi ora si pone la pistola, tendono a scurire. Li vendono i bussoli vuoti. A confezione da 2,50 mi sembra che sia. Sì, c'è un po' di tutto. Bossoli, proiettili, la palla, come si suol dire. Bene. Gli inneschi. Sì. E poi la polvere, è quella più impegnativa, diciamo, più. Mi pare che sia l'unica cosa che vendono solo col porto d'armi, la polvere. Tutto il resto mi pare sia libera vendita, almeno così era prima. E così è adesso. Ah, tuttora? Una volta avevo comprato dei bossoli, delle cartucce disattivate. C'erano cartucce intere dove hanno forato il bossolo da un lato, l'hanno forato e hanno tolto tutta la polvere. Capito? Sono da esposizione, molto molto belle. Se vuoi disattivata te la faccio io. No, ce l'avevo, poi vabbè mi sono rovinata perché l'ho lasciata nel cinturone da cowboy e si è fatto il verde rame, capito? Le ho usate un carnevale a Porto Torres, c'era il carro del cowboy e me l'ho vestito anch'io. C'avevo tanto di speroni, cinturone e pistola far west. Ero l'unico che aveva cose che sembravano vere, gli altri sono venuti con pistole giocattolo, col cappello di cartone, quelli, ma quando mai, credevo fosse una cosa fatta bene, no, invece erano tutti a pasticcio, mi erano vestiti. Tant'è che una persona mi ha chiesto, ma è vera la pistola? Io ho detto no, naturalmente no, non sarei potuto andare mica in parata con la pistola a vela, no? Infatti, con la pistola a vela va. Oggi mi hanno fatto abbassare la radio, ho tolto il doppio modulatore perché dice che era troppo forte, Franco, perché stavo uscendo con un watt, stavo uscendo, no? E cazzo, sta stare in picco. Sì, quello in città è anche fastidioso, quello va bene quando arrivi basso a qualcuno. E anch'io, se no starei con le mie BP5 a 10 tutto il giorno e faccio soldi alle persone. Che poi il tuo è anche più forte col doppio modulatore. Però, come diceva Claudio, le modulazioni troppo forti in locale alle volte possono dar fastidio, perché sai, entra quello basso di radio tipo Giuseppe e devi stare alza bassa, alzare per Giuseppe e abbassare per quelli forti. Sì, infatti. Va, adesso lo stacco, va, sennò adesso già ha girato sia stamattina che poco fa, ecco, allora se su dei murelli. C'è gli ammortizzatori, fatto bene, mi cazzo. Quanto dura il processo di pulitura di una serie di boccioli? Un paio d'ore lo devi lasciare girando, e te li inizi da cazzo qua, sono già puliti, dici. Ne ho messo tutti quelli che avevo, ho preso e ce li ho schiaffati lì dentro, così li pulisco e dopo me li faccio, piano piano. Perché sennò a stare sempre vendicasciucci mi si girano le balle, qua non c'è posto. Poi da solo è una paranoia, perché devi mettere gli inneschi, cazzo, prima te li devi, adesso devi togliere quelli vecchi, no? Poi devi mettere quelli nuovi, dopo devi aprire il bossolo e poi chiuderlo. Mi ricordo il giustiziere della notte che si faceva i bossoli da solo, cioè le cartucce da solo si faceva con la pressa, e ci aveva in quel film la, sai che pistola era? La 475 Wildy Magnum. Cazzo. Ma cartuccia la caccia grossa e da fucile. Figurati. Oh, che poi hanno fatto il calibro 500 Magnum, adesso all'epoca era una cosa eccezionale per calibro, adesso di uso, cioè 500 Magnum è diffuso, capito? 500, ma calibro 13 mm, mico, quella è da matti, però quel revolver è proprio da pazzi. Quello di via Catalocchino ce li ha, mi ha fatto vedere le cartucce, sono mostruose. Ci ha trovato dei sampi. Ce li ha quei revolver lì, 500, ma io, 44. C'era povero Cesare che aveva le 44 Magnum. Povero Cesare, ma anche molto Cesare. Eia, che era radioamatore pure, non veniva da noi a sparare. Ma l'ho provata la 44 di Cesare. Ne aveva parecchie, ne aveva quelle da 4 pollici, ci aveva favolose. Ah, ti ho applicato, mi sembra Cesare quello che sopra il tetto, che è molto. No, Cesare è il radioamatore. Facciamo anche una gara noi al campo per Cesare. Ho capito. Io l'ho conosciuto. Però mi siamo perso. Cesare De Zoli. Sì. Conosciuto. Andavo spesso a trovarlo così quando ero di passaggio. Se la vi, vedi, muoiono le persone che non devono morire, che non muoiono i cani morti. Ehi, Adisla è morto, poverino. Sì, l'avevo saputo una volta. Già ne aveva poco di armi quello stesso, cazzo. Uno o due carabine ci aveva e pistole di quelle grosse. Lo so, era amante di queste cose. Anche Pier Giacomo è collezionista di pistole. E io non mi sembra che ne aveva più Cesare, però sono un po' di una stronzata, ma mi pare di sì. E Pier Giacomo dice che c'ha la collezione. Beh, un bel di collezione Pier Giacomo. C'è il negozio qua vicino. Sì, non solo. Con sua vita io non ero ancora le mattone del fiore. Non era niente. Conosciamo una vita. Tu immaginati, io sono 35 anni con mia moglie. E io conosco te già con 35 anni, perché l'azienda che c'è lui sa cosa fa, no? Già lo sai, prima era in via Porcellana e collaborava con i suoi ricappa. E poi se li fanno male, capito? Quindi è un casino. Va bene. Vabbè, quindi Marco, stai in truccia, sì, e vinti il vinco domani. Ebbene, già in truccia, sì. Truscia? Sì, truscia, dineros. No, niente domani. Te l'ho detto, fine mese, fine soldi. Il 2 ritiriamo. Appunto, non si è arrivato a fine mese. Fine mese vuol dire 31. Domani è 25, mancano ancora 6 giorni. 6 giorni prima li hai finiti. Eh sì, oggi proprio. Ebbè, capita. Capita, tu mi vai sempre a fare due cosucce, due spesette. Ma se non bastano mai, poi con questo condominio di merda non fanno altro che fare lavori di questa fogna. Poi non so nemmeno se erano dovuti questi lavori, perché erano esterni al condominio, boh. Lasciamo stare, dai. E se non avessi considerato 300 euro? Speriamo magari che mi si parla di un'altra. Non sono già detti. Purtroppo è così. Che festa del cacchio, guarda, non ne posso vedere. Nemmeno i compleanni e gli onomastici nemmeno. Lui passa a vedere. La pasta è scolata. E chi me? Approfittato per andare a mangiare il cane, visto che c'era questo momento di pausa. E io ho detto che la pasta è scolata. Perché cosa hai fatto? Lo scolapiatti? C'ho uno scolapasta io, no? E svuoto la sabbia e i bussoli lì. E poi li tolgo la sabbia con lo scolapasta, capito? Uno di quelli vecchi ne avevo. E così fanno, non pensare che io l'ho visti, non so se l'hai conosciuto tu a Boselli, quello che c'era a Porto Torres, l'armiere. Così li pulivano. Ehi, magari c'aveva il tumbler come quello che c'ho io. Tipo una centrifuga aveva, boh. Ehi, a vibrazione funziona. E te li lucida. Che sbarinino lì. Sì, questa cosa così. Esatto. C'ho allucinante, c'ho un freddo, c'ho la felpa, allucinante. Ehi, anch'io ce l'ho, che cosa vuoi fare? Perché la temperatura è bassa, qui all'interno ci sono 14 gradi. Qua ne ho 18, di solito ce ne sono 21, 22, anche 23, ma è quello. E sopra il balcone si arrabbia. Se si apre la finestra per fumare una sigaretta, la zampa per la papà. Allucinante. Questo 25 aprile domani. Lo saccio. Ma Marco è partito senza vestire, ma sì che sta mangiando. E Marcolino dove è andato? Marcolino Condo. Non c'è Marcolino Condo, dove si sta mangiando? Sta pranzando adesso. Come dice sto facendo merenda? Come dice sta pranzando, una cosa allucinante. Alle mezzo di sera e pranzavo. I colleghi hanno incominciato a rattare la tetta. Anche i signori di Bonghi hanno chiesto che hanno buccia a nonna. Allora, se non ha il cammino. Marcolino! Allora, il cammino non è buccio. Usare grosso invece di usare il vino, capito? Mi sarà. È andata a mangiare, e dice la mania di ghiaia, l'ha perso tutti i denti. Allora, dice la briga di la tracca di Gambone. Allora, condito in salata col sale grosso invece del sale fino, che hanno perso tutti i denti. che di fare la fine di Rosino da cui bravo e Adriano gatto ne ha giunto da Rubalco. Ma me si dice ma per la vedete qui c'è un altro c'è un madre di Dio si dice ma che ne me ne parlava per carità dice un tavolone vi ragazzi un tavolone sta posto un bel diretto se fa di osso. Marcolino, sceso ci sei dal palco. Non rispondemi alle provocazioni. No, rispondo no, perché lui non è come quello, capito? Siamo che ne proprio mettendo il lavoro comune. Sono guardetto. Non passare, non transitare con il divieto di ricordo. Ovviamente, insomma, come ti ci dici? È passato. Si è trovata la mattonella decita dalla gola e si è bruciata con la terra la viadotto, non partono abbiamo la gola. Certo di è. Quindi c'è il carino, sì, sì, Maria che è. Per carità, come lo c'è, non mi hai visto io. Sì, sì, mi passava a dire l'anno. E se no era bindaccio. Allucinante. Avevo il segretario comunale che aveva già fatto la macchina. Bellissima questa macchina, bella. A goversela il segretario, a goversela. Mi ha fatto 500 metri se cupa mai tu. Solo bindaccio, vedi. Oh, ma che? Uno che è uscito, mancato a precedente, lì è uscito il proprio, via con Sospano. E c'è tutto un albero che vero, una aiuola con l'albero, ha deciso che la tua macchina, passa via, io quando lo vedevo cambiavo strada. Non si sa mai. Mamma mia, santo Antonio mio. E se no quando camminava, io chiamavo, quando vedevo che camminava, e no, i botti stritti mentre ho deciso quello che vale. Come lì ci compravano un paio di botti, sempre più stritti, sempre più stritti. E non abbappa da me. A suo ho ti spinto io. Ho ti spinto ma tu ci dai due. Ma brutto camminando. Cioè, tutto va ridotto, tu mi hai piatto io. Vabbè, ah, avete dormito chi su cazzo di Lugani. Avete venire la padrona a puttarlo. No, io sto portando verso le 8:15. Perché mia moglie e io, quando sono a casa io, ho proprio perso la mattina 8:30, le 9. E ce l'ho portata 10:30, le 11, capito? Perché non vuole uscire prima. Allora sto portando verso le 7:30, 8:15, le 8. Aspetta un Marcolino Condo, ma Alghero, Alghero, e beh Alghero, letargo siete, letargo? Io stavo dormendo qua. Dove Valerione? Ah, io che sonno, io mi sto, ah, sto dormendo. Stai dormendo? Sì, a che si attalla? Sono le 18:35, dove ti metti a dormire adesso? C'ho un sonno, mi sono dormitato davanti al PC, madonna mia. Mi sa che questa qua mi sta attaccando la ventrovia a coso, Marco. Ah, quello è un pipistrello, conosci un pipistrello? Vabbè, lui è un pipistrello, certo. Oh, ma sono stanco, stanco, ma stanco proprio. Ah, questo cavolo di tempo, boh, cioè, ieri notte sono andato a buttare la molletta, dico io, e domani vediamo anche i pinguini. Freddo c'è, va lì, c'è freddo, c'è sempre questo cacchio di vento freddo che non capisco, boh, non riesco a prenderne piede. Prima sembra maestrale, il mare è calmo, il vento di terra, boh, tramontana, grecale, ponente, levante, boh, non si riesce a capire, comunque è freddo. Il vento freddo, avanti Natalino. E dalla Russia dice che veniva questo freddo. E certo, ma quanto ce n'è di freddo in Russia? Se non avete un piccolo freddo russo, Un bel rinne. Tu pensa alla Siberia. Va via, come fanno a stare lì? Già lo soffriamo noi, questa brezza che arriva dalla Russia. Figurati lì che proprio lo prendono in pieno. Ucci. Bene, bene. E quindi vale, sei stanco, ma ti sei stancato ieri, capito? Adesso c'hai anche domani come festa. Mi sa che domani non c'è la parte, mi sto a casa, eppure. Ho chiesto questo ronzo, si sta rondando qua, qualcuno mi ha mandato un messaggio. E io sto a parte questo freddo qua, no? Se ci stai a casa adesso? No, no, forse domani mi sto proprio a casa, no, non mi posso voler uscire, sono veramente stanco, stanco, stanco. Sì, magari ti sei scoperto, c'era caldo, c'era, capito? Non fa, no, un casino. Io stamattina sono uscito, c'erano 8 gradi. Poi a mezzogiorno mi sono fermato un po' qui d'alba a fare dei lavori ed erano maniche corte, cioè con la maniche lunghe, però me l'ho tirata tutta su, capito? Perché non aspettavo che era il caldo. È un casino, non si capisce questo tempo cosa vuole. E vabbè. E beh, è stata lì, finito hai di pulire? No, li ho lasciati lì, gatta, domani a mangiare con la famiglia. No, ho capito. Dai, preparati, e già va bene. E Giuseppe, l'hai sentito o vale? No, non ho sentito. L'ho acceso, adesso ti ho acceso. Sarà 10 minuti che l'ho acceso. Sono qua davanti al PC che sto dormendo. No, non ho sentito, ancora no. Vediamo un po' cosa vorrà dirmi. Vabbè, non mi sa te. Ui. Così è. Marco, hai finito di straffogarti? Quanto mangia il ciobizzino? Quattro ganacce mangio. Cosette mangia lui, capito? Il primo, il secondo, la frutta, il dolce non deve mai mancare. Il dolce, se manca il dolce guai, mamma mia. Lui già piace anche a me, però io voglio il primo, perché se no diventa un botte di nuovo. C'è qualcosa perso. Mamma mia, che succede? Voglio sbadiglio, mamma mia. Vedete, c'è qualcosa che sta fischiando, c'è qualcosa che sta... Pronto? Pronto, chi parla, pronto? Sento la voce da qualche parte. Aspetta un attimo. Sento la voce da qualche parte. Dove sta entrando? Pronto? Ah, forse è quello, dopo. Forse non va bene. Aspetta che devo togliere qualcosa. Cos'hai messo? La colonnina preamplificata? No, ho messo un filtro, uno di filtro lui di capo di alimentazione. No, non va bene. Vibra tutto. Quando io parlo lui vibra, non capisco perché. Strano, di solito deve attenuare, invece te lo sta portando dentro, c'è qualche dentro di RF. Controlla. E me vado su un altro canale, voglio provare una cosa, eh. Fai, già siamo in 9. Marco Condor, hai finito di straffogarti? Guarda. Guarda la testa, che ora so? 7:10. 7:15. Devo andare anche a Chiaramonte da Chiarlo, forse chiami sì. Naggio una gana, quello più di lui, portarla là. Non era di me fare ragionamento, che palle. Non naggio un po' più gana, però ci devo andare a trovarlo e portarlo alla radio. Pensami mucho. Marcolino Condo. Ma ci sta fluente, c'è ancora. Da voi entra, sì, mi stavo mangiando due cosette. Niente di che, hai capito? Lo primo, il secondo, la frutta, lo budino. La banana. La banana con la buccia. Oh, la mamma mia, come sto? Nel radio. Ciao, Brioscia, buonasera a tutti. Ciao, Massimiliano. Ciao, Massimiliano. Sempre col compressore inserito, sì. E via. Sono inserito. Bella. Un giorno, no? Si torna a chiamare col tastino. Allora, che si dice? Vabbè, niente, non hai avuto risposte, quindi non mi hai mandato nessun messaggio. Niente, ho visto che l'ha letto, la risposta è zero, quindi vuol dire che non sarà interessato. Comunque, può abbassare. passato. E via, va. Già l'ho sentita già. Dai Gerette. Va bene. Ah, picchia, 9.20, io un picchia 9.25, sì. Oh, già funge. C'è sempre una proposta mia, uno scambio. Se no mi mangio il microfono. Vai, dica. Quando penso a tutto il resto mi vengono le lacrime. Tu non ti preoccupare, Gisca. Allora, Valerio, a Vicenza. Valerio, c'ho un rientro di RF, sta guardando la roba, si è spostato verso sul 15. E vabbè. Sono 7:10. Io oggi abbiamo fatto un po' tardio, sono arrivato alle 6:20. Sono buttato in doccia, che avevo un cago a morire oggi, quindi doccia, capelli, barba, e adesso giù un bagliettaglio. E io vabbè, non fu più di me. Io dopo prima si stava al cane, poi quando rientro, quando siamo già all'ora di cena, faccio la barba, la testa, la luce non sono già fatta, non sono ritratto, però la testa non me l'ha fatta. Va bene, avanti Natalia. Eia. Ma mia moglie si è persa che... Non sei contento, Natalia? Avvirami, non è che la vostra donna che mi ne ripareggiano. E io mi chiamo già giù, rapito. Sarà andata a concetta Natalia, passa andata. Mia. Avete parlato in due, non ho capito la minchia. Cosa hai detto, Natalia? È andata da Rita, dall'amica sua, a pigliarsi il caffè. Ah, ho capito. Come fate a rifurare il signor Davide, Massimiliano? 10:30 domani mattina. Ah, no, domani sera che ora? Alle 3? Domani sera alle 3 mi sembra che sia 3:30. Ma lì vicino a te abita? Abita in quella casa attaccata alla ferrovia, quella grande, non l'hai mai vista? Quella casa grande attaccata alla ferrovia. Ma dietro? Quando tu te ne vai dal bar per andare verso casa, come fai la curva? Hai visto quella casa a destra di quella grande? Quella era tutta la sua. Alle 3:30 domani. Ah, quella che c'è a sinistra come giri il passaggio a livello? A destra, ecco là. Come tu vai via dal mare, che giri per andare a casa mia, quella casa subito a destra. Mia casa, mio villone. E beh, fate un botto, vi sono 6 appartamenti. E se mi manca mai di nai, quella vita. E adesso chi ci rimane lì al Tabacchi? Anche oggi era chiuso, no? Credo di sì. Credo che non apra neanche domani e penso che aprile sarà, credo, a mercoledì. Adesso domani ci sono i funerali qua. E no, è 25 aprile, è festa. Era un bel punto di riferimento quel Tabacchi. Mi spiace tantissimo perché è un uomo veramente eccezionale. Io quelle poche volte che ci andavo con te, sempre gentilissimo, molto, veramente. Che peccato. Sì, non era neanche così vecchietto, quando devi venire a cosa, ne usai, no? Come ti funziona? È un casino. Una settantina d'anni ce l'aveva, no? Io penso che sarà anche sui 75 anche. Eppure non lo dimostrava, lo sai. Perché era un tipo molto giovanile, là. Sì, però già era molto tranquillo, là. Peccato veramente. Allucinante. La mobilia uscì e non doveva. Avanti Natalino. All'improvviso è successa chi su un impatto fulminante è giunto proprio, no, arrivato in tempo. Si dice così, è stato Massimiliano, però la provo di una poltrona. Sì, a classe, è stato per andare a aprire il bar, domenica mattina. Ci stava facendo, si è fatto la barba, mi ci ha detto va bene, no, qualcosa, si è pesato la poltrona e non si è più pesato. Aspetta un attimo. Ok, anzi tu per. No, niente, niente. Va bene, così vuole. E come? Fammi vedere. Va bene così. Hai abbassato la potenza? Leggermente, là, niente di portante bianca. Va bene, sfrutti di meno. Sei non vuole 20, non picchia 25. Cioè, va bene, fortissima la radio, quella. Yes, facciamo un press. Va bene, va. Come c'è una talisi notturna? Fai una scala interna, così c'hai il vicino di casa su, capito? Cacchiere, meglio niente. Parlambo, mamma mia, come sto, Natalie. Cazzo, la di chi muri, cazzo, ma paga sempre la sei. Io, cis. Allucinante, fuori di Gabus. Cazzo di... Allora, coordiniamo. Come? No, che stiamo... splatterato di brutto e vi fanno addirittura abbattimento zero a tecla, stanno facendo abbattimento zero, non riesco più a sentirti di corpo. Buonasera a tutti. Ma vedi? Tony non li sente, pure vicino anche lui. No, non li sento io, grazie a Dio, mamma mia. Ma le mie antenne si fermano con la sua, eh? Già. Attacca. Attacca a banda. Che c'è ora? E chi è morto? Guarda, stavo ascoltando, ma non potevo entrare, che stavo facendo roba. Chi è che è morto? Signor Davide, il padrone del bar di San Giovanni. Ah, oh, sì. Come andava a loro? Allora, San Giovanni, si è fatto la barba, si è fatto prendere a aprire il bar. Mi sento male, si è pesato la volta, non se ne è più pesato. Che sa... anche fatto fumiato. E intanto... molto stressato sicuramente, un uomo di 75 anni si alza tutte le mattine a risico, va a aprire, va a fare sempre lì in piedi nel tabacco, queste cose non vanno bene, a una certa età bisogna starsene a casa e basta, vero Valì? Sveglia, deve stare a casa, tranquillo, a riposare, mangiare, bere e già va bene così. E tu perché vai in giro allora? Grande cagata, non serve proprio a niente. L'unica è la connessione, quella fissa tu, senza tutte queste apparecchiature che devi mettere, ma un po' la sapete mica fare. È proprio l'estate, non è tutte le ore per un mese, non è tutte le ore, dalla mattina fino alla sera alle 10. Sì, ma siamo andati a farmi col paese come ho fatto io, per vedere non ti siamo mai più. No, io il computer ce l'ho a tre. Trovo benissimo, già da un bel po', e basta. E come telefono abbiamo tutti i team. Anzi, io e mia moglie abbiamo un team, mia figlia c'è ancora. Vabbè, avanti già, ripeti. Senti, Clara, sei uscito stasera. Chi è che sta cantando, Clara? Uscito. Chi è che sta cantando? Televisione. Uscito, no, già io un giorno, però non esco mai la sera, no. Ora c'è un posto, ora anche domani mattina. Faccio un controllino, poi facciamo tre giorni, me ne vado. No, non vuoi andare. Non esco più io, no. O se è finito di ieri. Anche noi siamo appesi domani. Io dico, la vita c'è stato fortunato, perché non ho provato né a Pasqua, né a Pasquetta, e nemmeno magari il primo che fa una volata. No, io me li faccio tutti, intanto non fare niente, mezzogiorno me ne vado, quindi ho fatto un po' la mattinata, no? Non me ne frega niente, lavoro anche il primo maggio, io vi lascio già, ma io ho tre festivi, aprile, mi sia la luce, pulita, pulita, capito? Sono soldi, quindi mi rilavoro, così ci vediamo in più. Tanto non devo fare niente, già non devo mai, sono a parte, mia figlia sono sempre aperti, ha lavorato lo stesso anche lì a Pasquetta, ha lavorato. A Pasqua sarà presa libera, domani mi ha detto che lavora, che va, quindi chiamo mia moglie, lo sa, dove vuoi andare. Alle 5 già, e rientro alle 3 a casa, quindi penso di aver guardato. No, non esco io la sera, no, vero, e allora mettiamo con me un casino proprio. Vabbè, sentito Gianni, Alghero. E cos'è? Mi siamo andati con Giorgio Massimiliano, un mio grafico qui vi raga. Mamma mia, ripeti Massimiliano. Dove è andato Massimiliano? La faccia. Già, hai parlato assieme a Massimiliano, non ho capito niente, dove tutti e due ti segnali, cosa hai detto Massimiliano? Ho detto che mi sto rifacendo tutti gli affarini bianchi della radio, ho capito, tutti in quella, come cazzo si chiama? Le vettine, no, c'hanno la freccettina bianca, quelle lì nuove le sto rifacendo nel lago. Le vettine bianche, boh, ma giudici le vette bianche. Ma stai parlando della grande o della piccola? Se tu vedi, c'hanno la freccettina bianca? Ah, sì, eh beh, quelli volevano fatti di tanto, sì, sì, va bene. Avanti, Natalino. Ehi, ehi, se avevi saputo me lo potevo fare, gassuccio, affanculo. Chi era rimasta fuori così di tanto? Vabbè, sei fermo, ma intanto non stai facendo niente. Prendi fare e dove gli è andato? Quindi è al mare già, io c'è il vento freddo qua su, non lo so se sono qua, non lo so, c'è il vento freddo. No, no, Claudio, al mare si stava bene, non c'era vento. Era una giornata a casa, al sole che cuoceva, e infatti c'era anche un po' rosso in faccia. Sono andato a passeggiare, ho preso un gelato, ecco così, non è che... Però... ho fatto la passeggiata anche in spiaggia, ci stava bene. Oh, ma cane hai portato? No, ero con una persona. Cara, ci sta facendo. bene, ok. Eia. C'era Marco anche, è andato a mangiare e si è aggattato con mai direi che si è mangiato rubiato, non ha digerito. Attento, ratta pignara. 7.5. Va bene. Scusate, devi scendere giù col carro. No, ancora è presto. Sono 7.5, con il carro. Voleva qua. Mi è mimetizzato nella sua cucciola mitica. No, lo sto portando anch'io verso le 8:15, così, capito? Tanto lo porti alle 7:30, non fa niente, si muove giù qua, lo porto prima che faccia buio, dai. Andava bene, non c'è problema, anch'io lo porto a quell'ora, guarda che freddo non ce n'è adesso e si può portare, dai. Non è che ci sia questo freddo che sarà come... Sta benissimo. Anche l'ho portata anche alle 9:15, quando è sabato. Questo è 9:15. E si è stato veramente bene. Ci ho trovato con l'altra ragazza, la ragazza che c'ha nel carro, ci ho messo a parlare, ho giocato, tranquilli. E via. Sì. Quindi io mi raccomando, ieri ho con una ragazza che c'ha il cane, c'ha un coppia irlandese, nero, bellissimo, che femmina, ha detto, mi piace un bel, infatti quando la vedi, c'è qui dove è, all'Ande Caraibi. E sto tentando, se lui riesce a farsi questo cane, io tento se riesco a farmi a lì. Così è. A fare un copione, va. Mi hai dato qualche dritta, no? Quindi mi comporto di conseguenza, capito? Una bella sera verso quelle 8, così già sono un bel di ragazzi che portano il cane, ma la gente vabbè, un po' più piccola di me, però sono tutti qua di questi palazzi di fronte, capito? Quindi non conviene valutare il letto, purtroppo è così. Andare, c'è Natalino, esci dal concetto, la pressa, Natalino, fregato sì. Speriamo sia la volta buona. Vai anche da visto Natalino. Quanti anni si è sposato Natalino? 7. Per il settimo mi si è a posto. Come? Se su per il settimo si è a posto. Lui a dire, avevo 35 anni, e si vede. Ma gli ho rifiato che viene. Sempre minestrone. Non è giusto sempre minestrone, ci vuole la pasta asciutta, ci vuole la minestra di lenticchie, la minestra ai fagioli. Allora, questa settimana con questo freddo l'ha fatta, perché la Ferrari è buonissima, con vendere, usci si c'è. Facciamo un bel vestito di verdura matita fino al mondo. E ci voleva perché sto freddo, era micidiale, capito? Oggi vado pensato io, perché sono arrivato a tardi. Poi mi sono direttamente sdraiato, ho mangiato una frutta e mi sono sdraiato. Stamattina, dico lì, sono andato a farsi il panino. Mi è arrivato dopo lui, erano già le 10:30, scusa loro, non dovevano finire, quindi si trattava, e allora sono arrivato a casa e non ci ho mai dovuto. Così recuperiamo un po', dai. Gappa. Avanti, vale, riprendi. Non è giugano. Faccio un attimo il codice, dai. Sei spento proprio oggi, prima ti riguglieggi la domenica, poi il lunedì sei un coso. Sì, il lunedì sono un cadavere, veramente. Poi stamattina ti dico che ero in forma, bello veloce, andando a torrente, mi sono fermato a Vidalba, da mezzogiorno a luna, farmi due cosette, a luna e 10 sono partito 1:15. Quando da solo sono preso la macchina, non mi sono entrato a casa. E domani ho trovato la cosa, però un po' prima, a mezzodì, baracca, baracchini e via a Domo Park. Arrivo subito, Non subito, abbiamo chiamato. Allora duri poco, non la sentite. E forse si è allontanato, l'hanno chiamato, non fu visto di domani. e ci fermiamo il programma qua. Abbiamo i permessi ai giovanotti, se no domani mi ficciano dodging, eccolo qua, richieste, vediamo. Allora, permessi retribuiti, P retribuito, eccolo qua. Sono domani mattina, poi mi chiedo, domani cos'è? 25, no? Data inizio, 25. Imposta, data fine 25, imposta, salva, ecco qua, a posto, così domani, domani iniziamo la mattina, capo ce ne vediamo, capo ce ne vediamo, ecco allora, ho mandato già tutti i permessi, così, quando mi chiamano va bene, arrangiati, ciao. Allora, te bella va, eh? Ah? Te bella va, Lucidas. Bella sicura radio. Allora sì, vediamo se mi dà l'attimo, lo ging, elenco, richieste, ecco qua, assente per me, siete 20, 25, 24, 2017, adesso c'è il semaforo giallo, quando appare il verde li faccio scappare tutti. Guarda, papà, la macchina, c'ho il pennarello, quello, l'indolismo, quello bianco, mi sa, capito? Ecco la punta del lago che stavo facendo, tutti gli affarini bianchi dei pomelli. Sì, quelle strisce bianche di riferimento, sì. Io le ho fatte tutto lo stesso al 4x40. Ok, va bene. Commenta di me, 16 ore ci ho lavorato su quella radio, capito? A 16 euro l'ora, di che mesi mi ridai, le voglio, Bene. L'interruttorino sta funzionando, il compressore, sì? Ma lo sai che... Sì. Mi sembra che non stava più scendo. Cosa hai fatto? Dietro? Ma cosa è successo? No, hai fischiato pure. No, già stai scendo. Sì. Cos'hai toccato? Nulla. Perché? No, sei uscito con un fischio. Non so cosa sta succedendo, ma... non stavi facendo prima, dicevo che a pulire un lago. Cosa vai, punto? Abbassa il microfono della radio, perché c'è il compressore inserito anche del microfono. Abbassa appena il microfono della radio. Mettilo leggermente più basso, un pelino. Vado a vedere se è troppo. Ma dove l'hai messo? Sotto la C, no? Ehi, sotto la C. No, mandalo appena più avanti. Non messo, lo vedi? Perché c'è un bel forte la radio. È lì il problema, c'è il processore e il compressore, capito? Massimiliano, mettilo sotto la C appena, vai. Come sono pronta? 85. Ah, 85. E allora mi tocca mettere due, sono fatto io, uno. Iniziamo, sono i colori di clarisse. Già messo, aspetta. Saliva. Se l'ho vista la portante. Certo, ma non usciva il radio, ma lo intendi? Sarà il microfono o la radio? Se è uscita la portante vuol dire che è il microfono. No, ho compreso, ho schiacciato il microfono e l'ago è rimasto a zero. Strano. Che dire, ha giocato a funzionare questa radio, non ha fatto un effetto. Non si dà dei difetti, mi... E lui sfigato. Ora. Sta andando, lascia andare, ma la ventola è in funzione, metti l'orecchio. compressore, mettimi che viene al massimo e attacca il compressore. Metti tutto al massimo. Guarda così, faccio 3, 2, 3. Ma che problema mai? È fortissimo lo stesso la radio. Ci invece non c'è il compressore. E se no è che bevi. Lascialo senza il compressore e di quanto che funziona il compressore, capito? E poi fino a se nuovo funziona. E il Michigi lasciano al massimo col processore della radio inserita. Va bene. Quella piccola forza di la così va bene? Sì, ha una grande. Oh, Gianni, bene lo sentiamo, Massimiliano. Aspetta. Oh, troppo alta era. Va bene, Massimiliano. Troppo alta di cosa? Di matte. Oh, è lottando. Non lo fai andare troppo alto, Massimiliano. Te l'ho detto, massimo 20-30 lì di importante. È una bestia quella radio, perché va un piccolo di 150 watt. È chiaro che magari dà dei sintomi di patia, capito? Dice, oh, dice a me. Io non capisco, se li dai, perché non devi uscire bene? Chi esce bene? Perché non esce bene? Perché non esce bene? E il microfono? Lui c'ha l'85, l'85 è un parametro, ecco, c'ha il compressore inserito, c'aveva il compressore inserito, più il processore della radio, è chiaro che fischia. O spegni il processore o spegni il compressore. Eh beh, quello sì. Ma la radio è favolosa. Non lo guarda. Sì, ma come ha mai detto, dove travagliamo, metti di qui, no? Come ti vuoi. Guarda, va bene. Prova. Così, di nuovo, tutto, vola, vola. A quanti watt sei? Aspetta. 25 watt. Dove 25 sei? Il rumore che sento cos'è? La ventola o l'alimentatore? L'alimentatore. Ah, ok. Comunque ogni tanto appoggia l'orecchio sul coperchio resta, se la ventola entra in funzione. Perché qua entrava tranquillamente. È molto silenziosa perché è tutta lubrificata, però non si sa mai. La sfiga che porti, cazzo. Anche quell'uomo è morto. Sto vendendo, ora, che interessa? Vende dei gorri. Lo scambio anche con 44. La manopola tiro, il VFO tiro il 44. Questa c'è la scheda in più, se lo sai. Beh, a signor Fucci c'è la scheda in più. Non ve la giro la scheda in più. Anche lì come non ve la scheda in più. Ah, è attaccato da Q. Mi dirà Gianni se se lo compra. Oh, ma se si tratta di questa roba qui, quando mi si è scaldare, si salve su poco lì. Che cosa? 140? Sì, cazzo anda così di brutto. Vabbè, la ventola già funziona, ma sono messo al caldo dentro casa, non lo so io. 140 e 70 sono così, sono con la ventola in orizzontale. Capito? Mentre il 440 e il 430 c'hanno la ventola dietro verticale. In più il 430 no, il 430 no, ma il 440 c'è anche il dissipatore oltre la ventola interna, capito? Quindi no, è fredda, è come che l'abbia accesa adesso, ma ci starebbe. Due conversioni sono quelle radio, capito? Due conversioni, quindi. Il problema è quello che quando l'accendi da 0 watt, poi inizia a scaldare e inizia a salire da sola la potenza. 430 a 440 hanno tre conversioni, quando l'accendi se lo lasci a 50 watt lo trovi a 50 watt. Vabbè, ma ho capito, ma vuol dire che vabbè, si scalda più di quel tanto, se non ci posso mettere supplementare, diciamo, supplementare, appoggiata così un'altra ventola sopra. Non le fai niente perché il dissipatore che è all'interno. Se tu apri quella radio e togli il coperchio di sopra, ok? Perché sopra vedi che c'è praticamente un dissipatore tipo un amplificatore lineare come può essere un 747, ok, poi la fai al libro perché va aperta al libro, sotto quel dissipatore c'è la ventola posizionata nella sua sede in orizzontale, quindi cosa succede? Girando in orizzontale gira e raffredda il dissipatore stesso, quindi non ti devi preoccupare, è così quella radio. Beh, chi l'ha inventata, chi l'ha studiata, l'ha studiata a culo di scimmia. Ah beh, certo. Va bene. No, però, cioè, è calda, però, non so. Mettere a funzionare l'occhio più tardi. Marcello, ma ti vediamo, metti tutto al massimo, dai, metti i bassi al massimo. Dai, cuomari. Sai che ci è tornato a mettere tutto al massimo? Così perché non va bene, ha voglia. Ciao Lu. Sei perfetta, 9.25 e radio Super 5, vai Luca. Bene, lo senti a Massimiliano. Buonasera a tutti, sì, ciao Massimiliano, ciao Valino, mi sa che sia, ciao Claudio, poi non so chi sia. Sono, ho acceso adesso. Avanti Massimiliano. Allora, ciao Luca, vieni. Tutto Roger qua. Ma va benissimo, Valerio. Avanti Valerio. Sveglia, ciao Luca, buonasera. Metti tutto al massimo. C'è paura, mi avete al massimo. Ma cavallino di alghe non l'ha più modulato. No, non penso che sia vivo. Ma lo conosci di persona? Sì, sì. Io l'ho conosciuto anni fa. Come ho conosciuto a Gigi, a Carlo, là. Tu la dici. Ehi, avanti cari, ma no, te preso a Carlo Parri, l'hai conosciuto? Anni fa, sì. Sempre con il godino, eh? No, c'ho i capelli di un pelo normale. Mi capito. A Parrire, sono un giorno senza sentirlo, senza vederlo. Manco più i UHF, l'ho sentito. Prima qualche volta entrava, poi non si è più sentito. Cavallino. Quello è Cavallino, Cavallino torna. Colui che non ritorna, Sant'Antonio mio, per feo, grazie. Ma lei non ridere, non ti vuoi con Maiglia. Sono esagerato. Un vimbranchi in tazza partita, eh? Tu te lo sai cosa vuol dire, zio, Valì? No, non so niente, io no. Non sai cosa vuol dire un vimbranchi in tazza partita? Io. Vabbè, io vado a fare una sigaretta, a dopo. Ah, non fumare, che fa male. Ah, da space. Oh, ma si vedeva. Allo volto un vimbranchi in tazza partita. Ma pensi tu? Allo volto un vimbranchi in tazza partita. No, non riesco a capire cosa vuol dire. Parla tricolore. Ah, io non sembro neanche figlio di Valgherese, ma come si fa? Allora vuoi un vino bianco nel bicchiere piccolo? Un vin bianco in tazza partita? Non riuscivo a capirti, capo. E poi, salga. Fisco è me. Cazzo, però accorgo, ma ci andavo spesso da Pinaggio. Il Pinaggio come è sempre parlato il sassarese, no? E mi dice un'altra frase, ha avuto un vimbranchi in tazza partita, te l'hai detto? Aio, ma non capisci l'algherese, manca l'algherese sempre, ma tu non l'avevo mai sentito, un vino bianco nel bicchiere piccolo, itti, molti, non è molto. No, non riuscivo a capire cosa stavi dicendo, capito? E vabbè, va, che posa tu, non ti preoccupi, ma anche ti sbarra la giuridia. A chi c'è attalda? Vogliamo la chita trumo da cortiglia, doppio root. Vabbè, io ando a fumare, a dopo. Eccomi qua. Sì, ma se mi hai lasciato così, no, mi siedi al compressore, sì, perfetto. Vai già, mi c'è anche Natalino, Tattalino. Tattalino, va. È tutto inserito qua, mi fumo la sigaretta e torno, ciao. Ciao. Oh, signor. Dico, come ne c'è Natalino? Già l'ho sentito che c'è il cuocomane di turno qua. Non parli adesso, eh? Bello bene. Cuocomane. È la mia, ho visto. Così ti chiami, Luca Puggio. Ho spostato un attimino per adesso a fare l'insulina, mamma ancora no. Perché? Perché? Dile il numero di telefono, Cla, a questo Luca Puggio. 27, 18, 26. Ma voi te ne butto l'antenna, eh? L'attacco all'R4, all'R5, eh? Hai capito, Luca Puggioni? Oh, Lu, ma ha detto però cosa è successo a Falcone? 2-4, 3-3-6-4, eh? Ah, ho già detto però cosa è successo a Falcone. Io lo so, te l'ha detto Grotto. Sì, lo so, ma va bene. Bravo, Matteo. Sì, sì. Fanno a pigliare una, mi sa che puoi sapere la macchina se c'è una buccia da Edo. Ma non mi sembra la testa a pasta, mi sembra che c'è il suo mare. Allora, questo maggio, bianco, abusato, venga, so che la muore, te la vendi, guarda. Poverino, che è stato che ce l'ha quel tuo, è quello. Ma perché non lo fate ritornare nuovamente per questa? Ah, farei, per piacere, già ne moduliamo più, sì. Ah, io, caro caro, mettiamo il giorno per una calzetta. Sì, con Marco in Ottondo. Passate, ogni risata, a me non mi ha mai rotto le scatole veramente, perché non lo attaccavo, capisci? Dai, poi farà bravo, io e stacca sta portante, te se vuoi modulare, te facendo un casino. Va bene, credo Spagliero, va bene, Spagliero mi chiama, non Sparviero, non ci va a dire Spagliero. troppo forte, vabbè, pazienza, le che tinti erano veramente belli, ma belli veramente. Io vedo sempre a coso, a pieno, cazzo, roba d'infarto, cazzo, a giumai li vieni all'infarto di quanto ruba sia incassato a pieno drago, mamma mia. Io tutte le mattine a Ginepro prendo il caffè con Marco, con Marco c'è il 31 quando rientra la propria giornata, la sia 10, c'è un quarto. Ogni tanto ci ricordiamo delle cose, è allucinante, sempre quella di Gabbo. Una volta ci ho guardato un whistle dip, un si chiamava, se non mi ricordo, praticamente aveva provato un microfono a far ancora il vostro tipo, e mi ha detto Lucia come compagna, e io ho stato un campanello di pazzi, e chi dava la mamma, tipo, chi è? E io ha detto, sono, non ricordo il nome antico adesso, come si chiama, Iana, cosa vuoi? E Paolo mi ha detto di venire qua, perché mi doveva dare un microfono, ma vai via, rompimi i coglioni, pure te la dai a me in faccia. Che non li poteva vedere CB, che dice che stavano distruggendo il figlio, cazzo. Ecco, mi ha raccontato il Beffa. Hanno venduto l'appartamento dove proprio stava Paoletta, no? E il giorno che sono andati a vederlo, che era proprio l'estate per vuote, cioè, quando si faceva le pippe, tutto il buco nel muro faceva. Alleluia. C'era il muro qua. Adesso solo perché hai detto così le scende le mutande a tua madre. E allora, sì, ha detto, no, ha detto lui sì. Tu cosa hai detto Polè? No, non sto dicendo a te, no, Spallier. Sto dicendo a quel figlio che cazzo l'ha messo la Bibbia. Piero, io. Io ce l'ho per me a casa. Sì, anch'io me l'ho scaricato, ce l'ho, ma è una cosa allucinante. Se Giovanni Modigliani, non so se lo sapete, abita a Termo, no? A volte ci vediamo. E perché vuol far vedere quel coso che aveva fatto Nino Torre Bravo, no? E apparentemente aveva fatto il coso del colpane, aveva fatto, ci avete capito. Era tutto incorniciato, coso, no, ma è toccato. Oh, quello ce l'ho io, non lo ha nessuno, perché c'è la firma sua sotto. Trovo i witch. Allora, Gesù, per carità. Ma io lo vedo spesso, no, Nino è la vecchia lo vedo, ma Giovanni, vabbè Giovanni, quando è morto il figlio è un po' calato, prima era molto più attivo, c'era l'edicola lì a Tergo, chiuso l'edicola, si era rinchiuso proprio in campagna, no? Giulia, pensi che ci sono, Giulia, cosa fa ancora? Una volta che gli hanno mandato per l'uccello lì, perché si tratta di un uccello, ha detto, oh, oh, dubbio, mi hanno fatto un regalo per il mio compleanno, oh, oh, e poi ti ha detto, cosa ti hanno regalato poi? Mi hanno regalato un bello grande, con la goccia in punta, oh, oh. Quello gliel'avevo fatto io. Pasticceria gliel'avevo fatto, cazzo. Quello che gli ha portato Alessio, lui mi ha detto che gliel'aveva portato Alessio. Ma io non mi lamento se viene via bussato Alessio, comunque l'avevo fatto io. No, te lo metto la partita che mi ho fatto a Canica, cesh, le lacrime me ne scendevano, cazzo. Abbiamo il bosso dirigente dove quando segnavamo, vale, era in panchina, se ne alzava, esordiva, camminando sembrava peggio sin da quelle prove che camminava, tutto gobbo, moribondo, tutto biatto. Poverino. E come me l'avete fatto il bagno con la schiuma a Papa? Nino, Marco, Giovanni, non ricordo chi c'era, avevamo fatto CB Scappoli contro Mogliatti, no, quelli un po' più piccoli e quello un po' più grande, ma no, ogni arreggiata. Una reggiata, Santa, non ho preso schiuma a Barbara, ma tutto schiumato, oh vale, ma tu dovevi vedere, ed uridia, con che tonaggio lungo un metro gli parava tutta la schiuma alla barba in bocca, e la leccava, puzzi rugio. Una volta che devo andare a puntare il passaggio vecchio, che si sono visti a fantasma con lì, con la lenzuola, che come è uscito lui, che era la puntava, e di nuovo, mi hanno fatto, alle bicicla con Antonio Reventi, dove avevano legato, era venuto in bicicletta, levato il fratello, e avevano legato la bicicletta al palo con una catena che ci aveva per legare il motocarro a quella di giorno. Che sciuga, no, non c'era Cristo, anche Vigio Ormai ha chiamato, che le volevano rubare la bicicletta, li hanno legata con la catena. E Antonio va a dire, ma se te la volevano rubare, come mai te l'hanno legata con la catena? Perché vengono stanotte a prendersela. Per carità, non volta di Piazza Castello, c'era un regalo di prima Piazza Castello, per ricordo di quel telefonato. Poi viene questo un supplì, mano a mano, a Falcone, e gli ho detto, vai a Vigio tua madre che resti con lui, che andiamo in pizzeria, se no si preoccupa. No, vai a Vigia, al telefono, e do il gettone. Dato il gettone, come dietro andava a Brigi. La gara toccava una rete e quindi era già morto. A proposito, io ce l'ho su WhatsApp, Antonio. Antonio da 20, adesso lo togli a tutti. No, ma era una cosa che non c'era rimedio, non c'era rimedio. Vedere i passaggi proprio allucinanti, i camionisti, magari lo facevano a beffa perché stava sul canale 5, da lì ritornava mezzo isciuga, arrivava in capo al mondo, una cosa allucinante, e stava mezz'ora con la portante calcata sempre dicendo stronzate, e sul 5 allora era il periodo che trasmettevano molto i camionisti. Ma vai da, ci due bestemmie che tiravano un poverino. Mi arriva tutto di rigore, una volta che l'hanno invitato a mangiare, gli hanno messo il butta, si è cagato in nato, gli hanno messo le lattici nel pantalone, mi sono scelto della cacca. Quella è la babasone giallo, e allora, no, è cosa era? Quello che faceva l'artista della Modesta, aspetta come si chiamava, non me lo ricordo adesso. È tratto solo, Lollo. Ehi, Lollo, lui, Lollo. No, mi hanno fatto male a... Cazzo, lo cosa con la butta, la che pare bene, non so cosa è. Sento, se la mangiato, cazzo, si è cagato in nato. E dopo la portare a casa, quindi hanno messo gli elastici nei pantaloni. Tre tartine erano col Gutalax. Tutto Massimiliano, ehi, ma già a te gli ha fatto vedere, va? Che sciogli, esatto. E tu pure, però, che la ricerca doveva ricevere un passaggio, e poi entrate in radio la sera tutto pimpante. Allievo, e trovo già voi, poi lasciami la testa, certa pace. No, ti devo dire, ecco, sono uscito in macchina con Gianni doppio ru. No, è entrato un uscito. Gianni lo più rumo, hai detto, vai Paolo, non devi fesserie che Gianni non ti porta in macchina. Sì, mi ha portato in macchina, ha detto. Sì, adesso mi ha vagone. Allucinante. Avanti Massimiliano. Sì, sono qua. Ascolta il messaggio. Allora, la studia. Stavo andando qua, Massimiliano. Cosa, già? Te lo stai mandando al telefono o qua, il messaggio? No, gli ho mandato un messaggio. Un messaggio, va. Pagata. Ok, va bene. Ah, non pensavo che mi stessi facendo ascoltare il messaggio vocale qui. Ok, non arrivate da Rigore, ma guarda c'è Falcone. Lo portavo alle pizzerie, ragazzi, si tirava di là. Per il resto sono telefono, si pagava le pizzerie, dava i suoi soldi e poi si sarebbe il resto. Però va bene, non fittassi di là presso la malata, per il varaccio. Se faccio sentire il brivido legato, ma non seduto, forse vuoi uscire, che ora so. 8:20, vabbè, adesso ci prepariamo fra un po', dai. Avanti Massimiliano, ripeti. Beh, anche io, come si dice, e io vado a prepararmi, già sono qua, riprendi il valente, ti sto acceso qua, mi preparo solo là, davanti alla porta, non la tutta, già sono qua. Allora vi portate voi, portate il cane, a spazio, io cosa porto a spazio? Niente. E poi anche tu, cane, ti fa compagnia, invece di stare da solo, quando ti fa compagnia ti spona uscire. Sì, quello è per il cane di proprio... Avendo il cane si ti porta proprio a uscire per forza, a passeggiare, e già lo so, è un po' di palle, io già mi piace il cane, però no, per il momento non ne voglio sapere. E oltretutto ti fa socializzare un po' con la gente, perché ricordi che chi ha il cane è tutta una comunità, le persone ti si avvicinano, ti parlano come se ti conoscessi da tanto tempo, e io l'ho notato questo, cosa che magari a uno che passa non gli danno confidenza, uno che c'è il cane si mettono a parlare, cose, le ragazze, tutti quanti, uomini grandi. Io ho conosciuto un po' di gente, tu pensa che nel vicinato ho conosciuto più gente in 2 anni che io ho il cane di 25 anni che abito qua. Sì, ti credo, sì, è proprio così, fa... sì. Porta a socializzare con la gente, sì, sì, perché insomma quello cercare, si cercare, capito, una parola tira l'altra e va. Sì, ma poi anche le persone ci fanno, che bello qua, che cosa è, questo e quell'altro, capito, si avvicina molta gente. Mi fa un po' di compagnia, quando torno a casa ti faccio tre feste che è allucinante, ti salta sia dal collo, sa. Ah, quello sì, quando non ti vede tutto il giorno, quando torni a casa, grandi feste. No, non lo so, sì, fa molta compagnia, vabbè, dai. Non lo so, io già mi sto, già sento, già lo vorrei, capito, un cane, non sai che no, per il momento no, poi vediamo più avanti, con la vecchiaia. Ma se non hai figli, che dici fuori dal lavoro, non stai lavorando più e cose, noi, ti metti le giornate, guarda. Se trovi la moda è meglio, ma se il cane, diciamo, non ti abbandona mai. Ah no, il cane no, non ti abbandona mai, ed è sempre... vabbè, dai. Ormai hai preso la scimmia. Oh, yeah. Vabbè. Dai, diciamo che io, per me, chi non ce l'ha il cane non lo capisce. Dico, te è un cane, non è vero. È come una persona, guarda, perché mi manca solo la parola. Io al cane lo chiamo e faccio, e lui mi risponde, capito? Ho salutato mio figlio, va? Sì, aia. Ciao, benissima. Ciao, Gaia. Ti ho mandato il saluto anche al telefono, va? Allora, Gaia, io vado a portare il cane. Se ci siete, ci sentiamo, ok? Ehi, aia, va bene, ciao. Ci sentiamo, che ogni tanto qua mi stanno anche chiamando al telefono, va? Vi saluto cordialmente, non continuo con il seo, faccio pure ti anch'io, il cane, eh? Andiamo, Massimiliano è l'unico fortunato che abita in campagna, che non c'è bisogno di un puntiggio qua da solo. Sì, io apro la porta e fa tutto da solo, capito? Da solo, anzi, perché femminuccia. Va bene, ok, ci sentiamo dopo allora. Ehi, dai, ciao Massimiliano, ci sentiamo, dai, buona serata di nuovo. Non so se rientro, perché magari qui esco, là, non ne vado a fare un giro. Anda bene, a non sbidere, ciao. Ehi, dopo, ciao, adesso vado a prepararmi da mangiare, ciao. Ciao, dopo buona, ciao. Ehi, alla costa? Quasi, gambelloni. Ciao, va bene, dai, sono bene lo stesso. Ciao. No, io stasera c'era leggera, penso, non lo so, se vado fuori mangio qualcosa in più, ma se sto a casa c'era leggera. organizzate per qualcosa, quest'altra mangiata che ci dobbiamo fare insieme. La pare ti ho già detto una cosa, Claudio, ti ho detto io, Quando? No, quando non lo so, ho detto che pago io, siccome il 26 di questo mese è il mio compleanno, no? Perché al prossimo mese vediamo di organizzare qualcosa e pago io. Ma dai, ti viene salita, dai, nel senso che cazzo è un'età. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Aspettate, già siamo ici. Ma Stefano, non l'hai mai sentito? Ragazzi, Stefano, ci sentiamo su WhatsApp. Perché salutarvi tutti, ma lui ha iniziato la stagione, adesso dal primo maggio inizia la stagione. A vedere a Stefano, a meno che non scenda veloce a Sassari, ma è difficile, se no se ne parla a settembre. Andava bene, no, io l'ho sentito diciamo 3 settimane fa, cavalcava, allora lo facciamo lo stesso, poi quando viene lo rifacciamo. Sì, ma ha detto non c'è nessun problema, Stefano già una persona amore. No, ho levato un messaggio su WhatsApp, se come lui me li manda spesso, non scherziamo. Ha detto, dici il video sei, no, come dicono in Gallura. E lui mi ha scritto, sì, salgo dici il video, salgo all'aeroporto. Va bene, ragazzi, sentiamo dopo. Ma se vediamo, lascia tutto acceso che ti richiamo dopo. Ciao a tutti. Ciao a tutti.